invasione, ma quando parte il fuoco ci travolge l'emozione. Una valvola di sfogo, un momento di evasione, ma quando parte il fuoco ci travolge l'emozione. Accorni, scoparmi oscura, accorni, scoparmi oscura, accorni, scoparmi oscura, accorni, scoparmi oscura. Cambia la forza, forse cambia l'energia, ma la rabbia quella.